Benissimo, allora direi che possiamo iniziare la nostra serata. Presentazione del libro Storia di un ragazzo ebreo, un diario del 1943 al 1946, scritto da Federico Steinhaus, che è con noi questa sera. Ringrazio di essere con noi, di essere tornato qui al Trevi Lab per presentare la propria testimonianza, uno spaccato di storia non solo locale ma internazionale. E ringrazio Paolo Campostrini, che ci aiuterà a portare avanti questa serata, farà da moderatore, ci aiuterà appunto a condurre questa narrazione molto particolare e difficile. Cedo adesso poi la parola anche a Felix Obermeier della casa editrice Rezia, e volevo anche invitarvi a tornare qui presso il Centro Trevi alle varie iniziative che abbiamo in campo in questo periodo dell'anno, come Biblioteca Provinciale Claudio Augusta. Mercoledì 19 alle 17.30 avremo di nuovo il nostro gruppo di lettura. Questa volta l'Officina del Pensiero si dedicherà alla gentilezza. Nuovo mood per essere più fiduciosi nel futuro e nei rapporti tra di noi. Se vi interessa, alle 17.30 nei locali della biblioteca ci troviamo. E poi il 20 di aprile saremo qui per il nuovo libro di Giacomo Sartori con Giovanni Accardo, Fisica delle separazioni in 8 movimenti. E infine Schnapp Schüsse, istantanee, delle poesie raccolte e scritte da Nico Menna, che ce le presenterà il 26 di aprile. Ecco, questa è una carrellata molto breve, ma se avete voglia di avere ulteriori informazioni, siamo qui dalle 9 alle 18 al piano terra. Vi ringrazio. Vi saluto e ringrazio ancora della vostra partecipazione. Cedo la parola a Felix Obermeier e vi auguro una piacevole serata. Grazie. Ringrazio Valeria Trevisan, direttrice della Biblioteca Provinciale. Sono molto contento di salutarvi, potervi salutare così numerosi qua al Centro Trevi. E prima di iniziare con il dialogo tra Paolo Campostrini e Federico Steinhaus, abbiamo ancora tre passaggi di lettura con Annika Schuderbach, lettrice della Biblioteca Provinciale, e vorrei però prima anche ringraziare la ripartizione di Cultura Italiana per il loro sostegno finanziario, che senza quel sostegno non sarebbe stato possibile realizzare questo libro. E poi scopriremo, entreremo nei dettagli di questo libro con Federico Steinhaus e Paolo Campostrini, però prima invito Annika Schuderbach a leggerci qualche passaggio del diario di Leopold Perlman, questo giovane ragazzo ebreo. Sì, tutto Israele. Le macchine si fermano dove sono, la gente scende sulla tenti. Cosa stupenda. Tutti hanno dei parenti che sono morti nei campi di sterminio. Certo. Alle 5.30 minuti il treno partì. Vi era stato un ritardo di 10 minuti a causa di Ralfi. Io mi affacciai al finestrino. Il treno stava oltrepassando il ponte di ferro sul Passirio. Dopo pochi minuti era in aperta campagna. Salutai con gli occhi Merano. Quando avrei riveduto la mia città natale? Il treno passava rapido e presto Merano non si vedeva più. E intorno non vi era altro paesaggio che i campi e un po' più lontano le montagne. Ogni tanto qualche contadino mattiniero si fermava nel suo lavoro per osservare il treno che rapido passava davanti ai suoi occhi. Sui monti si scorgevano dei villaggi. Quando avrei riveduto quei monti e quei campi? Queste domande rimanevano senza risposta. Dopo un'ora che il treno si era mosso dalla stazione di Merano, fui in vista alla città di Bolzano. Vedevo in lontananza le rovine del recente bombardamento. Era questa una cosa nuova per me, già che non avevo mai veduto un attacco aereo e tantomeno i suoi effetti. Il treno lanciò un acuto fischio ed entrò sbuffando come un cane dopo una lunga corsa nella stazione di Bolzano. Mi ero appena allontanato dai miei congiunti quando i miei occhi castani si offerse una scena niente affatto degna del XX secolo, che secondo alcuni dovrebbe essere civile. Si trattava di questo, un convoglio composto di carri merci chiusi. Di solito questi treni portano bagagli, merci o bestiame. Questa volta però si trattava di un carico assai diverso di quelli sopra detti. Si trattava infatti di un bagaglio umano. Sembrerà inverosimile, ma io vi posso assicurare che l'ho visto con i miei occhi in pieno secolo XX. Adesso spiegherò con un po' più i particolari. Se avete visto qualche volta un vagone merci, vi ricorderete che esso ha un finestrino solo, chiuso da una fitta rete metallica. Il convoglio di cui vi parlo è appunto composto di vagoni di questo genere. Inoltre gli sportelli erano piombati. Adesso che ci ripenso, mi viene in mente che ancora non ho detto chi erano quei disgraziati rinchiusi in cotal modo. Essi erano soldati italiani che i tedeschi avevano preso prigionieri nelle caserme di Bolzano e che ora venivano deportati nei campi della morte. Vidi inoltre che alcune persone si avvicinavano in fretta ai finestrini a cui erano appoggiati parecchi di quei poveri soldati che non avevano altra colpa che non quella di essere italiani. E poi se ne allontanavano celermente. Evidentemente avevano paura di quel tedesco dalla faccia da bandito che passeggiava avanti e indietro sul marciapiede davanti al treno e che teneva sotto il braccio come un ombrello o un bastone da passeggio un bel fucile mitragliatore con la pallottola in canna. Chiesi a un passante perché quelle persone stavano aggrappate ai finestrini, se così si possono chiamare, e che cosa facevano quelle persone che si avvicinavano al vagone. Il signore al quale mi ero rivolto mi dette gentilmente ampie spiegazioni. Quei prigionieri cercano di dare l'indirizzo dei loro congiunti perché quelle gentili persone scrivessero la loro situazione. Inoltre, quei signori e quelle signore cercano di dare a essi di nascosto delle mele, un pezzetto di pane, e di nascosto perché sennò quella guardia sarebbe capacissima di regalare una pallottola nella pancia a chi venisse dare un avanzo di pane a uno di quei disgraziati che sono già molti giorni a digiuno. Quel signore aveva appena finito di darmi questa spiegazione che da quel treno partì un grido che aveva qualcosa di tragico, come erano tragiche le parole proferite. «C'è un morto! C'è un morto! Portatelo via!» Nelle ultime parole c'era un tale accento di supplica che tutti i presenti ne furono commossi, meno una persona, e cioè il tedesco, che continuava imperturbato a camminare avanti e indietro, battendo ritmicamente gli scarponi ferrati sul selciato. Il suo cuore era certamente duro come quel selciato. Ritornai presso la mamma ed aspettai con impazienza il treno perché mi volevo allontanare da quel luogo che oramai mi faceva ribrezzo. Grazie. Questo è uno dei passaggi più emozionanti, ma questo è un libro breve, piccolo, ma ha due questioni che secondo me sono importanti, soprattutto quando c'è di mezzo la storia di un ragazzo ebreo e in generale l'ebraismo, gli ebrei durante la guerra, prima, dopo. Ci sono due cose interessanti al di là della storia, che è estremamente emozionante, anche perché da un ragazzino, da un bambino, ed è stupefacente come sia la scrittura in senso formale che i contenuti siano potuti sgorgare dalla testa, dall'immaginazione, da ciò che questo bambino aveva visto. Ci sono due cose. Uno è la prefazione del dottor Steinhaus, che è un libro nel libro. Sono poche pagine in confronto al libro, ma è un racconto in prima persona, in seconda, in terza persona, i suoi ricordi personali, della sua famiglia, di chi ha vissuto Merano in quegli anni, prima della guerra, che è una geografia straordinaria di una presenza, della presenza ebraica a Merano che ha più di tante altre comunità che hanno affollato la città, chi provenendo come, come dire, rottami di navi dopo un naufragio dall'est Europa, dalla Russia, da questa Europa sempre travagliata da invasioni, da lotte, sia religiose che politiche, e racconta una presenza straordinaria fatta di nomi e cognomi, personaggi che hanno costruito alberghi, che hanno come dire, condotto ospedali, che hanno curato un sacco di meranesi, nomi e cognomi che rimandano a un mondo scomparso, perché anche il dottor Steinhaus a un certo punto ci dice che di queste centinaia di persone ne sono rimasti pochissimi. Pochissimi perché la comunità ebraica meranese fu spazzata via dalla Shoah, fu massacrata, decapitata, molto più di altre comunità. E l'altra questione interessante di questo libro è che è un libro sugli ebrei durante la guerra e quindi nel pieno dello sterminio, che non racconta lo sterminio. Leggiamo qui di un ebreo che si è salvato, e questo è un aspetto che in qualche modo ci fa cogliere non tanto la tragedia, pensiamo ai libri di Primo Levi, pensiamo ai tanti che sono passati vicino a quei cammini, ma che però ci dà un'emozione nuova, un pochino asimmetrica rispetto a quello che noi siamo abituati a leggere, ed è un ebreo che si è salvato e che improvvisamente scopre, ed è questo penso uno dei momenti più emozionanti al di là di quando lui racconterà della sua permanenza nei campi di rifugiati a Roma, ed è quando lui passa con l'emozione di un bambino dall'aver vissuto e del vivere in una città normale, in una famiglia normale, in una casa normale, e improvvisamente questa casa, questa città diventa estranea e nemica. Vede persone che fino a un'ora prima lo salutavano per strada, vede persone che imbracciano un fucile, borghesi, gente che il giorno prima gestiva un bar o un albergo o vendeva il pane nel forno. Ecco, queste persone agli occhi di un bambino improvvisamente diventano ostili. E a un certo punto dice, sto camminando per tornare a casa e incontro una persona che mi dice, attenzione, ci sono uomini civili, prima disarmati e oggi armati, dai tedeschi che una volta occupate le caserme distribuivano i fucili dei militari italiani, e ci disse inoltre che bisognava lasciare Merano perché tutti gli ebrei locali erano conosciuti dalla popolazione e quindi presto l'SS sarebbero venuti a prelevarci a casa. Ecco, quindi le persone conosciute improvvisamente diventano un pericolo. C'è questo bambino che invece fino a un minuto prima considerava le persone conosciute come persone che gli avrebbero dato una mano se cadeva per strada, se aveva bisogno di un pezzo di pane, il fatto di essere conosciuto diventava improvvisamente un rischio. E questo è come dire, un aspetto, un taglio del racconto della Shoah a cui non siamo abituati, ma che proprio per la sua quotidianità e per il fatto che questo bambino si è salvato da tutto questo, acquista un significato straordinariamente vivo. C'è poi un ultimissimo aspetto, prima di dare la parola al dottor Steinhaus, che oggi è la giornata in cui in tutto Israele, al suono di una sirena, per qualche minuto, ogni israeliano si ferma, che sia in autostrada, che sia in ospedale, che sia mentre sta servendo a un banco, che sia un militare che sta proteggendo i confini di Israele, che sia un pilota, che sia chi sta servendo in un aeroporto o in un ufficio comunale, si ferma. Ed è uno spettacolo, tra virgolette, che ferma il cuore, perché si vedono le auto in autostrada che fino a un secondo prima correvano, che una dopo l'altra si fermano, accostano in mezzo alla strada, tutti escono, e per un minuto tutto Israele ricorda la Shoah, perché ogni israeliano ha in casa sua una fotografia di uno scomparso in quei campi. E questo penso che sia anche una delle ragioni per cui tu hai scelto questa giornata per presentare questo libro. Beh, c'è il microfono. È acceso, sì. Sì, è una coincidenza che mi fa piacere alla fine dei conti, perché ci consente di condividere delle emozioni. Certo, in Israele si fermano tutti, come diceva Paolo, scendono dalle macchine, escono dal luogo in cui stavano, si mettono sull'attenti fino a quando suonano le sirene, che suonano a lungo, un minuto che non finisce mai. E questo è il modo in cui Israele ricorda la Shoah. Il libro invece è diverso. Francamente è rimasto per molti anni nel mio cassetto, perché i tempi non erano maturi qui da noi per apprezzare, per capire quello che diceva, quello che ci raccontava questo ragazzo. Oggi i tempi sono maturi, vedo che l'emozione che suscita il racconto è qualcosa di molto positivo. L'ho scelto e l'ho proposto alla Rezia perché è un ragazzo che parla idealmente ai suoi coetanei. I ragazzi di oggi, io ho visto oggi sul mio cellulare la fotografia di un gruppo di studenti che è andato in gita ad Auschwitz, e sono lì che si fanno i selfie con le ragazze che si mettono in posa sui binari di Auschwitz che portavano i treni, e mi chiedo, ma questi viaggi della memoria, queste lezioni sulla Shoah, sul passato, come vengono recepiti dai giovani di oggi? C'è una piccola percentuale ovviamente che reagisce in maniera molto positiva, ma la grande maggioranza dei ragazzi oggi cosa pensa di queste cose? Come le recepisce, come le percepisce? È roba passata, è roba vecchia, è roba che non ci riguarda. E domani, quando non ci saremo più noi a raccontare in prima persona, riguarderà ancora meno questi giovani. Questa è la preoccupazione che mi anima, e non soltanto me naturalmente, e che ci preoccupa: come faremo a far arrivare, come faranno i nostri successori, per dire meglio, a far arrivare questi messaggi ai ragazzi in maniera tale da farli partecipare a questo episodio purtroppo drammatico, terribile della nostra storia europea. Questa è la cosa che mi domando, perché i ragazzi tenderanno a vedere in Hitler e Mussolini personaggi non molto diversi storicamente da Napoleone, da Luigi XIV, da chi volete voi nei personaggi storici del passato. E questo è un pericolo gravissimo. È il pericolo che si perda completamente il senso etico di quello che è successo, il senso umano di quello che è successo. E nessun libro di storia saprà mai rendere questo passato come lo rende la viva voce di un testimone. E questo libro è la viva voce di un ragazzino loro coetaneo che forse possono leggere e accettare in maniera migliore. Sì, questo è il punto. Perché nel momento, tu hai citato Napoleone, hai citato le grandi tragedie della storia, c'è un momento in cui la realtà, no? Il sangue vivo di quell'atto, di quella tragedia, di quella guerra, di quella persecuzione, smette. E in qualche modo avviene, come dire, la ricucitura della storia. Pensiamo a Napoleone qui, pensiamo a Berghisel, pensiamo a un certo punto i tirolesi e i francesi non pensavano neppure lontanamente di ripercorrere quelle battaglie, quegli scontri, quelle tensioni. Ecco, invece, quando tu dici che i ragazzi di oggi iniziano a perdere il senso proprio di carne di ciò che è successo, io penso perché si rischia di perdere il senso della specificità della Shoah, non solo della Shoah in quanto episodio avvenuto in un momento preciso, dal 35 al 45, ma perché il mondo ebraico, gli ebrei, oggi gli israeliani, gli israeliti, come si dice in termini anche religiosi, sono una ferita che tocca tutto il mondo occidentale da 2000 anni. No. No? No. No, dalla morte di Cristo in poi, secondo me. Ah, nel senso, vabbè, in quel senso lì, nel senso della loro esistenza. Sì, sì, nel senso che in fondo ciò che noi percepiamo dell'ebreo, ciò che noi individuiamo in lui di volta in volta, come l'immagine del male che è dentro di noi o che ci accade, ecco, è una cosa che, come posso dire, che ci perseguita di generazione in generazione in qualche modo. Se pensiamo al fatto che oggi nelle scuole francesi gli ebrei non escono da quelle scuole con qualunque simbolo che rimandi alla loro religione, perché ci sono bande di ragazzi del Maghreb che non fanno altro che, ecco, ci sono ancora oggi centinaia di famiglie in Francia che se ne vanno in Israele, quindi dopo 80 anni dalla Shoah. Ecco, io penso che anche questo vada tenuto in considerazione, non solo la Shoah in sé, ma il fatto che noi nel mondo occidentale abbiamo nell'ebreo qualcosa che perseguita la nostra percezione del nemico più di qualunque altro. Oggi c'è l'islamico, l'altro ieri c'era il nazista, ancora prima c'era qualcun altro, ma l'ebreo è sempre lì, pronto a farsi oggetto di, come dire, del nostro odio. Non volontariamente. Non volontariamente, ovviamente, certo. Anzi, contribuendo allo sviluppo della società. Sì, ma tu dicevi la Francia, ma attenzione, nella stessa Germania il governo ha invitato gli ebrei tedeschi a non portare più simboli ebraici. In Germania, pensiamo a questo, nel civilissimo Belgio, in Svezia, vogliamo veramente realizzare quello che si era prefissato Hitler, un'Europa judenfrei? È quello che sta succedendo. Il pericolo è questo. Prima di venire qua ero per un'intervista alla redazione dell'Alto Adige e mi hanno chiesto: ma tu cosa ha perso l'Europa perdendo gli ebrei? L'Europa ha perso, non lo so, centinaia di premi Nobel, Hollywood, tutti gli attori, i registi ebrei di origine europea che hanno fatto grande Hollywood, la letteratura americana del Novecento, che senza gli scrittori ebrei ex europei sarebbe stata svuotata. Questo ha perso l'Europa, ma l'Europa non lo sa, non se ne rende conto, non vuole accettare questa realtà. Sì, questo mi viene in mente perché ogni tanto emerge, magari in modo non esplicito, ogni volta che si parla della Shoah, ogni volta che si ricordano certe date, ogni volta che in televisione, in un dibattito pubblico, pensiamo alla senatrice Segre, no? In qualche modo riaffiora questo possibile senso di colpa o questa possibile necessità di non dimenticare. Ogni tanto emerge, non solo in settori politici specifici, ma in generale come un moto di fastidio, come dire, ma sono questi ebrei, basta, cosa vogliono? Gli ebrei sono la cattiva coscienza degli europei. Sì. Lo sono in tutti i sensi, lo sono partendo dal fatto che noi siamo debitori della loro fede. Pensiamo che quattro quinti dei libri che noi leggiamo in chiesa tra l'Antico e il Nuovo Testamento sono ebraici. Pensiamo a tutta la tradizione che in qualche modo ci ha portato nel Novecento. Gli ebrei sono stati di volta in volta, forse per questa loro spinta minoritaria, alla scoperta di cose che in qualche modo noi non avevamo voglia di fare, sono sempre stati accomunati a qualunque cosa ci desse fastidio, dai massoni ai comunisti, ai socialisti. Pensiamo che anche oggi, nella percezione storica, a sinistra gli ebrei sono accomunati con il grande capitale americano, i banchieri, Rothschild, eccetera. A destra sono invece accomunati con i comunisti. Pensiamo a tutta la propaganda della destra, ma ancora oggi, ebrei e comunisti sono il male dell'Europa identitaria. Ecco, a destra come a sinistra c'è sempre qualche ebreo utile. E tutto questo si incarna in Israele. Si incarna in Israele, sì. Ecco, e quindi, come dire, superando anche il messaggio di questo libro, se Leopold Berman oggi, come dire, partecipasse a qualche dibattito sulla attualità geopolitica, si troverebbe di nuovo a dover giustificare la presenza ebraica oggi in Medio Oriente. Perché in fondo anche la stessa presenza, e questo prescindendo dagli errori macroscopici, ad esempio, del governo di oggi, di Netanyahu, di Bibi e dei suoi soldati. Di governi precedenti. Pensando solo a Rabin, ma pensando, pensando anche all'atteggiamento che hanno i territori occupati, spesso alla spinta dei coloni di non voler cercare un accordo, prescindendo dalla realtà politica effettiva. Pensiamo in fondo che oggi, se Leopold Berman, dopo quello che ha passato, lui è uno che ha passato poco rispetto a tanti altri, fosse ancora qui in un dibattito sul Medio Oriente, in fondo si troverebbe ancora a dover giustificare il cosiddetto focolare ebraico in Medio Oriente. Come mai questo? Ti prendono sempre a giustificare la loro presenza in qualche modo. Certo. Quello che dicevo prima, la coscienza cattiva, la cattiva coscienza degli europei. Gli ebrei incarnano questo senso di colpa. Gli europei, ma non soltanto gli europei, e non dico i nazisti e i fascisti, dico gli europei, hanno una grave responsabilità negli avvenimenti della Shoah, legati alla Shoah. Pensiamo alla civilissima Svizzera che ha chiesto a Hitler di inserire sul passaporto degli ebrei tedeschi la famosa I lunga di Juden, la iniziale di Juden, per poterli riconoscere e respingere alla frontiera. La Svizzera. Pensiamo all'America che ha respinto le navi degli ebrei che cercavano di fuggire dall'Europa e li ha rimandati in Germania. Pensiamo agli inglesi che durante la Shoah hanno impedito agli ebrei di andare in Palestina, facendo i blocchi navali e chiudendo gli ebrei poi in campi di prigionia a Cipro e in Libia. Pensiamo al fatto che noi pregavamo in chiesa fino a qualche decina d'anni fa, liberaci il Signore dei perfidi giudei, no? Del messale è stato eliminato da quale papa? Certo, da un papa, sì. Molto recente. Sì, sì. Ecco, no? Ecco, a me viene in mente un'altra cosa. Noi siamo spesso preda della necessità, per, come dire, coprire le nostre frustrazioni, le nostre paure, di individuare in qualche modo un nemico, spesso non singolo, ma annidato in un gruppo sociale. No. Negli ultimi 40 anni, diciamo, 30 anni, da quando è iniziato il fenomeno migratorio in senso pesante, potente, in qualche modo uno dei nostri nuovi obiettivi è l'islamico, la donna velata, usi diversi, il condomino nel pianerottolo che magari si porta il capretto, ecco. E quindi abbiamo già scelto l'altro nemico, che è l'islamico. Ecco, tuttavia, come dire, non riesco a cogliere in questa avversione che ci tocca adesso, e che è un altro sintomo delle nostre frustrazioni di europei, di occidentali, non riesco a cogliere però la costanza con cui invece l'ebreo continua a essere identificato, no? Scusa, accennavi prima soltanto a questo problema, ma quasi 2000 anni di insegnamento nelle chiese e nelle scuole hanno sedimentato un'immagine, un pregiudizio. Quasi 2000 anni di insegnamento, chi andava a messa sentiva parlare dei perfidi giudei che avevano ucciso Gesù. A scuola io, che ho una certa età, mi ricordo il catechista che insegnava queste cose ai miei coetanei. E questo è successo, e questo ovviamente si ripercuote ancora. A questo si aggiunge che nel frattempo è nato lo Stato di Israele, e che di conseguenza, oltre a esserci l'ebreo in quanto individuo da odiare, c'è anche lo Stato degli ebrei da odiare, e che rende più facile forse addirittura anche questa manifestazione. Anche perché spesso agisce in un modo da giustificare magari una versione, no? In tutti i tempi. Però questa versione pregressa in qualche modo, no? Nel senso che si aspetta sempre l'errore, no? Sì, sì. Ecco, un'altra cosa che mi incuriosisce è che anche nel libro emerge, dal diario del ragazzo, che in qualche modo adesso è abbastanza in salvo, può parlare con la mamma, può mangiare, può guardare le cose del mondo. Ecco, come dire, la percezione di quello che stava avvenendo, e quindi i campi di sterminio, la brutalità, proprio la quantità enorme, la specificità del massacro degli ebrei, l'uso delle camere a gas, l'uso dello sterminio di massa, e fino a che punto era in qualche modo chi il contemporaneo ne era cosciente, no? Perché ad esempio il ragazzo a un certo punto, il 3 giugno, dice, ieri lui è nel campo a Cinecittà, dove sono radunati i profughi, no? E dice, eravamo in città anche noi alla fine della guerra, sfruttando i capannoni del cinema. Ieri sono arrivate 5 greche di Rodi che erano state portate nel 1944 nel campo di Dachau in Germania. Esse abitano nella camera accanto. Tutto il campo parla di loro. Le cose che raccontano sono orrende. Io le scrivo come le ho sentite. Esse hanno raccontato che ricevevano 2 ore di bastonate al giorno. La cosa più orrenda che hanno raccontato è che dovevano vedere bruciare i propri genitori. Scrive in modo infantile forse, no? Però ragazzi, tutti hanno avuto grande compassione per quelle ragazze e hanno avuto grandi facilitazioni qui nel campo. Hanno ricevuto vestiti a sufficienza e dei letti. Ogni giorno si sentono altre atrocità dei nazisti, non dimentichiamoli. Ecco, quindi in qualche modo gli stessi ebrei, pur sapendo che se giravano per Merano in quel momento dicevano, ecco che sono un ebreo, come la povera Olimpia Carpi qui a Bolzano a 4 anni denunciata dal vicino di casa, e in qualche modo dicono, beh, insomma, se ci prendono ci portano ai campi di concentramento, forse ci ammazzano. Ecco, però l'idea della enormità della cosa, allora, forse neanche lui la se ne rendeva conto. Allora, quel brano che hai letto è una riflessione su qualcosa che avviene alla fine della guerra. All'inizio, quando hanno cominciato i nazisti e i fascisti locali a imprigionare, a perseguitare, a deportare gli ebrei non ci credevano. L'ebreo diceva, ma cosa c'entro io? Io sono un buon cittadino, pago le tasse, non ho mai preso sono anche iscritto al partito, magari. Magari anche iscritto al partito. I fascisti, gli ebrei fascisti erano numerosi. Certo. Non ho mai preso nemmeno una multa, niente. Perché dovrebbero prendersela con me? Questo era all'inizio. e questo ha facilitato tutto quello che è successo dopo. Poi, man mano che le cose andavano avanti, gli ebrei sono diventati sempre più consapevoli di quello che succedeva, ma non soltanto gli ebrei. Attenzione, tanti italiani, tanti tedeschi, tanti austriaci, tanti francesi dicono: ma io non lo sapevo, non lo sapevo. Ma questa gente vedeva sparire i loro vicini di casa. Questa gente, quando vedeva sparire i loro vicini di casa, andavano a portar via le cose di casa loro, perché sapevano che questa gente non sarebbe tornata. Attenzione, non erano soltanto gli ebrei che si sono resi consapevoli di quello che succedeva, erano anche tutti quelli che vivevano intorno a loro. E io posso ricordare che quando i fascisti, ripeto, i fascisti ci davano la caccia in Toscana, mio padre dormiva, eravamo nascosti in montagna, e mio padre dormiva con una pistola sotto il cuscino e diceva: se arrivano, piuttosto ci ammazziamo tutti, piuttosto che farci prendere. Perché sapevamo, era ormai verso la fine della guerra, siamo oltre l'8 settembre del 43, però a quel punto sapevamo già qualche cosa. E di conseguenza anche la consapevolezza, che è arrivata in ritardo, avrebbe potuto aiutare molti ebrei a salvarsi, se non ci fossero stati altri che glielo impedivano. Ho parlato di inglesi, ho parlato di americani, ho parlato di svizzeri, potrei citare i francesi, potrei citare molti altri, che li impedivano di salvarsi, che li bloccavano, o li respingevano, o li imprigionavano. E questo è da ricordare. Tutti, forse tranne la Chiesa. Io penso che una delle maggiori operazioni di salvataggio, nonostante i messali che dicevano dei perfidi giudei, ma sia avvenuto nelle chiese, nei conventi. Penso che nessun sacerdote, nessun monaco, nessun convento, nessuna chiesa abbia mai respinto un ebreo. Esatto. La Chiesa, se parliamo della Chiesa nel senso appunto sacerdoti, frati, suore, la Chiesa diffusa, diciamo, hanno salvato moltissimi ebrei, e gli ebrei l'hanno sempre riconosciuto con gratitudine. L'atteggiamento ufficiale del Vaticano, chi ha letto i libri di Kerzer su Pio XII per esempio, ha visto una documentazione molto, molto completa, molto esauriente. La politica ufficiale del Vaticano all'epoca delle persecuzioni anti-ebraiche in Europa era quella di voltarsi dall'altra parte. La giustificazione era: non vogliamo mettere a rischio i cattolici tedeschi. Esatto. Da vendere. Vedo che hai letto Kerz. Sì, esatto. I vescovi dicevano: magari i nazisti, se noi interveniamo troppo duramente, esatto, come Chiesa, prendevano, certo, i cattolici. Diciamo, la giustificazione un po' pelosa. Certamente, no? Certamente. Questa era una delle motivazioni. Ma un'altra motivazione è anche diversa, più profonda, se vogliamo, meno banale. Quando i primi sionisti sono andati a chiedere l'appoggio del Vaticano, parlo di Pio X in particolare, la risposta è stata: il singolo ebreo lo possiamo aiutare, ma non possiamo permettere che gli ebrei possano riavere un loro Stato. La Chiesa era antisionista, e questo è dimostrato a posteriori anche da un altro fatto. Pensate a quanto tempo è passato prima che lo Stato Città del Vaticano riconoscesse ufficialmente lo Stato di Israele. Considerando anche il fatto che Andreotti, in qualche modo, il nostro ex premier, è l'icona di questo atteggiamento, no? Ecco, pensiamo a come anche dal punto di vista diplomatico, dal punto di vista dell'accettazione della realtà, in fondo il Vaticano e la Chiesa sia sempre stata molto più disposta e disponibile ad affidare la protezione di alcuni santi al mondo arabo, al mondo palestinese, sì, al mondo giordano. Era molto politicizzato. Ecco, piuttosto che averla in mano, sì, agli ebrei. Forse perché in qualche modo gli ebrei erano i concorrenti più diretti dal punto di vista religioso. No, c'era il vecchio problema del deicidio, ovviamente. Certo. E voglio ricordare un'altra cosa anche che non tutti conoscono. Quando è caduto il fascismo ed è diventato presidente del Consiglio Badoglio, una delle prime cose che Badoglio ha tentato di fare è stato di abolire le leggi razziali fasciste. Cosa ha fatto il Vaticano? Pio XII ha mandato padre Tacchi Venturi, un gesuita di Verona, da Badoglio, per raccomandargli di non abolire le leggi razziali fasciste. Sì, queste cose spesso non sono studiate a scuola. Un'altra cosa che mi incuriosisce è la colpa individuale e la colpa collettiva. Io sono stato testimone diretto perché avevo intervistato questa persona e poi mi ha chiamato invece l'altro tesino che aveva letto, il mio concittadino di Bolzano che aveva letto l'articolo. Vicenda Olimpia Carpi, questa bambina ebrea, la prima forse tra gli ebrei, deportati a Bolzano dopo l'1 settembre, e a essere internata e scomparsa e uccisa nei campi di sterminio, 4 anni, la più piccola vittima, ecco. Si ricorda, si vede ancora sotto la fotografia con vestitino bianco, con la mamma che la portava su Potentarva, insomma, una cosa abbastanza devastante dal punto di vista così del pensiero che evoca. È venuto qui a Bolzano, c'era molto, lui era è un chirurgo dell'ospedale di Forlino di Cesena ed è il cugino di Olimpia, nel senso che i suoi genitori erano, i genitori di Olimpia erano i suoi zii. Lui Olimpia non l'ha mai vista perché era piccolino anche lui, però questo ricordo in famiglia di questi zii di Bolzano che sono stati uccisi mentre la sua famiglia in qualche modo si è salvata, sono scappati in collina e poi alla fine sono riusciti a superare la linea gotica ed arrivare agli americani. E lui è venuto qui a fare una conferenza nelle scuole, perché sono sempre straordinarie queste persone ormai anziane che hanno sempre la forza e il coraggio di farsi chilometri, di stare delle ore a parlare con i ragazzi e raccontare ciò che hanno visto ed è successo. È uscito il giornale il giorno dopo raccontando la testimonianza di questo cugino che rievocava il fatto che questa bambina, la sua cuginetta, era stata messa nelle camere a gas per colpa di un vicino, un commerciante di Piazza Municipio, che dopo l'8 settembre ha alzato il ditino dicendo alla polizia civile bolzanina, al sodo dei nazisti, lì abita una famiglia ebrea. La sera stessa sono arrivati e li hanno portati via. Un erede di di questa persona che ha voluto fare, deve essere più zelante degli altri, è una bravissima persona, vive a Bolzano, fa tutt'altro lavoro, mi ha telefonato e mi ha detto: sarebbe possibile che io incontrassi questo Carpi, questo dottor Carpi, e gli chiedessi perdono? Io voglio chiedere perdono, ma non solo perdono perché mi sento di essere strano a tutto questo, ma voglio a lui chiedere perdono proprio perché ha avuto questa perdita. Io mi sono fatto la tramite, ho chiamato il dottor Carpi e gli ho detto: dottore, c'è parente, un nipote di questa persona che lei stessa si è riconosciuta colpevole di questa denuncia, che chiede il suo perdono. Lui non ha voluto chiamarlo e mi ha spiegato perché, non per cattiveria, lui mi ha spiegato per filo e per segno perché per lui non ha senso. Lui ha detto: per me non ha senso che io dia il mio perdono a questa persona. Questa persona a me non ha fatto niente. Io non posso perdonare una persona che non è colpevole di nulla ai miei occhi, se non essere parente di... Per cui io non la voglio incontrare, perché non voglio che lui mi chieda perdono, perché io ho già dato il perdono. Io ho perdonato me, lei, tutti quanti noi che non siamo colpevoli di nulla. E quindi lui mi ha fatto capire come esista una responsabilità politica, una collettiva, ma esiste una responsabilità individuale. Cioè, chi ha fatto queste cose è lui il colpevole, non i tedeschi, i bolzanini, gli altoatesini, mio zio, mio nonno, è lui il colpevole. Per cui è semmai a lui che io potrei dare perdono. Lui non c'è più, quindi è inutile che io dia perdono a nessun altro. Ecco, questo senso della responsabilità personale per me è importantissimo. Ma dunque, due osservazioni, due cose. La mia impersonale, la prima. Io sono in ottimi rapporti, diciamo anche di amicizia, con un discendente di persone che hanno denunciato ebrei a Merano. E lui non c'entra niente, e siamo in buoni rapporti, e di conseguenza non ne abbiamo mai parlato, francamente. Lui non mi ha mai chiesto perdono, io non ho mai pensato di dovergli perdonare qualcosa. E questo è un fatto personale. Invece, da un punto di vista più generale, il concetto del perdono per gli ebrei è un concetto diverso da quello dei cristiani, è molto più, consentitemi di dire, molto più elaborato. C'è un famoso libro di Simon Wiesenthal che si chiama I girasoli, che racconta una storia. Un giorno Simon Wiesenthal, penso che sappiate chi era, il cacciatore di nazisti, fra virgolette, un uomo che era sopravvissuto a diversi campi di sterminio e poi aveva dedicato la sua vita alla caccia ai criminali nazisti e viveva a Vienna. Quando lui è tornato dal campo di sterminio, un SS che era ricoverato in un ospedale di Vienna l'ha chiamato, l'ha fatto chiamare, e quando lui è andato lì ha detto, questo SS gli ha detto: io ho fatto queste cose, mi perdoni? E Wiesenthal ha risposto: io non posso perdonare delle cose che lei ha fatto a qualcun altro. Lei ha commesso dei crimini nei confronti di altre persone e io non posso perdonarla a nome di quelle persone. Dopodiché a Wiesenthal è venuto un dubbio, una crisi di coscienza, e lui ha scritto delle lettere a filosofi, teologi, scrittori europei, non solo ebrei, chiedendo se aveva fatto bene o se aveva fatto male. Ma il fatto stesso che lui avesse rifiutato il perdono dicendo non posso è significativo, perché questo è il modo in cui gli ebrei intendono il perdono, qualcosa di molto profondo, di molto personale. Sì, è una cosa che mi ha colpito, questo signore anziano che come posso dire, ha avuto il coraggio nei confronti anche di se stesso, cosa che noi cristiani, le persone normali, ma che non siamo dentro questa cultura, consideriamo il perdono una merce abbastanza, come dire, economica, nel senso che lo diamo a tutti se solo ce lo chiedono, giusto per noi, no? Crearci dei problemi. Ecco, invece il fatto che lui avesse problematizzato questa cosa è molto ebraico, nel senso che sì, è molto legato a una visione del mondo fatta veramente di problematicità, no? Sì. Anche il rapporto con Dio è problematico, certo, ebreo, il rapporto con un altro ebreo. Noi abbiamo le cose molto facilitate per i cristiani, no? Cioè andiamo a confessarci, anche se abbiamo ammazzato 10 persone, alla fine il paradiso è assicurato, basta che un prete ci dica va bene. Ecco, e tante altre cose in qualche modo, ecco, questa, questa questa percezione ebraica che ogni cosa ha un peso. Ecco. È una cosa che a me è sempre impressionato. Sì, sì, sì. Non siamo un popolo di persone semplici. Ecco, sì, esatto, proprio un po' complicato. Siamo complicati. Sì. E questo mi fa venire in mente anche il, per dire, so, il processo Eichmann e tanti altri come dire, processi a criminali nazisti. Questa come dire, riluttanza da parte un po' di tutti, ovviamente, ma degli ebrei in particolare, e secondo me non soltanto perché sono le vittime dirette, il fatto di non accontentarsi di dire ho eseguito un ordine, ecco, per un ebreo questa è l'ultima giustificazione che uno potrebbe dare. Anche nell'esercito israeliano? Io ho eseguito un ordine, cosa c'entra? Ecco, per un ebreo diciamo, c'entra, ecco. Che concetto è? Sì, nell'esercito israeliano vige la regola che gli ordini possono essere disattesi se sono contro coscienza. E il militare che disobbedisce a un superiore che gli impartisce un ordine contro coscienza non è punibile. E, a proposito di Eichmann, in Israele c'è la pena di morte. L'unica persona che è stata condannata a morte è Eichmann. Con tutto quello che succede in Israele, terrorismo, disastri di natura politica, nessun nemico di Israele è mai stato condannato a morte. Sì, qui si innescherebbe il ragionamento sulla democrazia in Israele, quindi sulla questa sua unicità anche in quelle situazioni e sul fatto insomma, della, come posso dire, della difficoltà, no? Di mantenere la rotta in un mondo così drammaticamente violento come il Medio Oriente, ma qui apriamo. Ecco, forse siamo andati, abbiamo mosso altre onde, altre acque, no? Però ci ha portato lontano questo libro che sembra apparentemente un diario di un bambino e ci ha fatto entrare anche nella mente, no? Di una cultura, nella mente nostra rispetto a queste vicende. E non so se sei d'accordo, se adesso potremmo magari chiedere, certo, magari se c'è sì, qualcuno che voglia anche di... magari la lettura di un brano. Ecco, facciamo prima la lettura e poi... Sì, direi di sì perché... Certo, perfetto. E quindi chiudiamo anche emotivamente. Certo. Bologna, ma quello vicino città forse. Sì. Andiamo sul finale. Roma, 15 luglio 1945. Questo che sto scrivendo, se un giorno uscirà, sarà un monito per coloro che non vogliono credere. Questa è la semplice storia di uno dei tanti che sono stati nei campi di concentramento per 5 anni, torturati da quelle bestie feroci, le SS. Chiamare quei mostri bestie feroci non è sufficiente. Oggi al ristorante polacco abbiamo incontrato un giovane polacco di 19 anni. Non aveva un posto dove stare e la madre lo ha portato a casa nostra. Le cose che ci ha detto sono quasi impossibili da raccontare. Se uno scrittore volesse rappresentare un quadro di fatti mostruosi, non potrebbe certo scrivere qualcosa di più orribile. Questo giovane è stato lasciato solo al mondo e ha dovuto vedere con i suoi occhi bruciare il padre, la madre, le sorelle e i fratelli. Ci ha raccontato di aver visto bambini gettati dal terzo piano o schiacciati con forza contro il muro. Roma, 10 febbraio 1946. Oggi è il mio compleanno. Compio 15 anni. Stamane ho pianto pensando all'attuale situazione della famiglia. Non abbiamo notizie di papà. Troppo trovo impossibile credere che una persona possa avere un cuore così duro che, avendo la possibilità di offrirci una vita migliore in America, non lo faccia. Questo è il volto di un giovane che non ebbe giovinezza, che non sa più né piangere né ridere, che la vita ha schiacciato sotto l'immane peso della cruda realtà. Su questa fotografia tu vedi la maschera di un volto. Se la maschera cadesse, vedresti una mente turbata dalla vita che troppo crudelmente si è accanita contro tuo figlio. Roma, 26 febbraio 1946, alba di pace. È finito finalmente lo schianto delle bombe. Non più si sente il continuo tamburellare delle mitraglie, il rumore cupo delle squadriglie di bombardieri carichi di micidiali ordigni non fa più tremare la terra ed i cuori. C'è la pace, finalmente, ed anche la libertà. Quella libertà che è conosciuta veramente solo da coloro che ne sono stati privi. Non rimangono che mucchi di macerie a ravvivare i ricordi della recente guerra. Nei cimiteri vi sono più morti da piangere. Ma la vita ricomincia, la gente ritorna a divertirsi. Per le strade non si sentono più i secchi ordini militari, ma gioiose canzoni. Il contadino si avvia allegramente al lavoro, anche se qualche volta non ritorna, ucciso da una mina. Gli alberi storniscono le loro fronde carezzate dal vento, forse pensano ai loro rami strappati dalle granate, alle loro fronde più belle tagliate per mimetizzare automezzi militari. Le loro foglie ricresceranno, come altri uomini nasceranno al posto di quelli morti. I bambini ritorneranno a pullulare nelle scuole. Molti portano il lutto. Forse qualcuno la sera a letto piange silenziosamente ricordandosi quando la madre gli passava dolcemente le mani tra i capelli. Gli anni passeranno e un giorno, quando saranno vecchi, racconteranno accanto al... stavo per dire focolare, accanto al termosifone, ai loro nipoti, di questa guerra. Ed essi rideranno divertiti sentendo dire che ai tempi del nonno si faceva la guerra con la bomba atomica. Per avere ragione con chi non ragiona, bisogna dar ragione a chi ha torto. Grazie. Ecco se qualcuno dei nostri... Prego. Con... possibilmente col microfono. Danke. Ringrazio. Sono Ettore Frangipane, sono giornalista, ho scritto qualche libretto, tanti articoli, ho intervistato in anni lontani anche il dottor Federico Steinhaus, che ho il piacere e l'onore di conoscere. Nel tanto discorrere che si è fatto qui in questa sede, non si è detto una cosa fondamentale. Perché, non si è giustificata, perché gli ebrei sono ritenuti così diversi? La ragione è unicamente religiosa, perché gli ebrei nella loro lungimiranza hanno capito 2000 anni fa e anche più di 3000 anni fa che c'era un Dio solo, una sola entità, e questo religione naturalmente nell'alto dei cieli, cosa contestabile secondo me, però questo è un fatto interessante perché si sono messi in opposizione al politeismo dell'impero romano. Sono stati pertanto discriminati fino a un certo punto, ma soprattutto si sono loro stessi autodiscriminati perché convinti di essere depositari della verità. Pensate a una cosa fondamentale: Gesù Cristo era ebreo, gli apostoli erano ebrei. Vorrei dire che i cristiani, forse adesso lei avrà modo di contraddirmi, i cristiani erano un'eresia degli ebrei nell'ambito della religione ebrea, il monoteismo contro il politeismo. non più Giove, Apollo, tutte queste cose, ma un solo Dio. Ecco, questa è una cosa fondamentale. Gli ebrei, che hanno intuito questa verità di base, se è una verità, si sono arroccati nel loro monoteismo, contrastando, cioè distinguendosi dal politeismo del resto dell'umanità, non soltanto dell'impero romano, del resto dell'umanità. Pertanto sono stati ritenuti sempre diversi, sono sempre stati diversi, ritenuti diversi per questo motivo, perché convinti della esistenza di un solo Dio. E questo fatto, e da questo fatto sono partite le persecuzioni e tutto il resto. Non mi voglio dilungare ulteriormente e restituisco il microfono. Vi ringrazio. Ma ti ringrazio per questo intervento, ma non sono del tutto d'accordo con te. Allora, mi spiego in particolare su un dettaglio. Tu hai detto gli ebrei ritengono di essere i depositari della verità. Allora, non è vero. Questa è una manipolazione del concetto di popolo eletto, che è stato sempre ritorto contro gli ebrei. Gli ebrei si ritengono superiori, ritengono di essere il popolo eletto e di conseguenza di essere superiori a tutti gli altri popoli. No. Una volta, anni fa, un rabbino, che era rabbino, vice rabbino capo di Milano, perciò non era l'ultimo arrivato, è venuto a Merano e ha tenuto una lezione a insegnanti, e un insegnante ha tirato fuori proprio questo argomento, il popolo eletto, e questo rabbino ha risposto: gli ebrei non sono il popolo eletto, gli ebrei sono il popolo elettore. Gli ebrei hanno stretto un patto, volontariamente un patto con Dio, ma non si ritengono un popolo eletto, si ritengono il popolo che Dio ha scelto perché gli serva. Gli ebrei sono i servitori di questo unico Dio e non un popolo eletto superiore agli altri. E questa è una distorsione, scusatemi, forse offendo qualcuno, ma è una distorsione tipicamente di origine cristiana. L'antisemitismo di natura teologica è nato da queste distorsioni, e gli ebrei non si ritengono depositari della verità. Per gli ebrei non esiste il concetto di salvezza legato all'appartenenza a una certa religione. Per gli ebrei si salvano le persone che agiscono bene, punto, a qualunque religione appartengano, anche se sono politeiste, anche se sono animisti, non ha importanza. Se sono persone che si comportano bene, saranno, fra virgolette, salve, nel senso che saranno amate da Dio, se vogliamo riprendere un concetto cristiano. Ma il concetto di salvezza legato alla religione per gli ebrei non esiste. Invece per noi cristiani l'ultimo atto, anche dopo una vita terrificante, ci consente di salvarci. Ecco, ci sono altre domande? Prego. La signora e poi il signore, grazie. Grazie. Ha nominato la Svizzera, volevo dire però che non è tutto bianco, tutto nero. La Svizzera ha anche accolto le due figlie di un ebreo meranese che probabilmente è morto ad Auschwitz, quindi come sempre, no, la verità sta un po' nel mezzo, ci sono anche queste cose. Tornando alla Svizzera, anni fa a Zurigo avevo visto una mostra al Landesmuseum di Zurich sul concetto del capro espiatorio, quindi partendo dai riti ancestrali passava per Gesù Cristo, passava dall'Olocausto, terminava con i migranti, e tra l'altro l'Italia non ci faceva una bella figura, diciamo, no? secondo me era interessante dal punto di vista antropologico, forse un po' riduttiva, perché come avete accennato, appunto avete parlato, per 2000 anni sono stati e sono tutt'oggi anche oggetto, no, di odio, di razzismo, eccetera. Ma la mia domanda è questa: abbiamo sempre bisogno di un capro espiatorio? Cioè ci deve sempre essere un qualcuno che si fa carico delle brutture, delle cose scomode? Questa è la domanda. Esula un pochino, ma mi interessava la risposta del dottor Stabilis. Ma il capro espiatorio ideale sono sempre stati gli ebrei, perché erano sempre una minoranza e di conseguenza molto facilmente identificabili, vivevano in gruppi e di conseguenza si potevano considerare concentrati come oggetto di violenze eventuali, e di conseguenza erano non violenti, perché fino a, diciamo, alla nascita dello Stato di Israele, gli ebrei erano sempre, fra virgolette sempre, alla mercé di una maggioranza che poteva essere amica o nemica, non ha importanza in questo momento, ma erano sempre all'interno, vivevano all'interno di una maggioranza. I monoteisti e politeisti dall'altra parte. Io riduco tutto là al fatto che gli ebrei erano orgogliosi del loro monoteismo, mentre gli altri non accettavano l'idea di un solo Dio. I musulmani sono monoteisti? No, non mi sembra che sia questo. Ma anche per i musulmani il Dio Allah è il Dio dei cristiani ed è il Dio degli ebrei, cioè il Dio unico. Certo, allora nel mondo cristiano, nell'Europa cristiana, perché ricordiamoci di un piccolo particolare: l'antisemitismo esiste nell'Europa cristiana. Se andiamo in Africa, andiamo in Giappone, andiamo al Polo Nord, l'antisemitismo come lo conosciamo noi non è mai esistito. Oggi può esistere un antisemitismo che è riflesso dell'odio nei confronti di Israele, perciò di natura politica. Ma l'antisemitismo, come lo conosciamo noi europei, è una caratteristica dell'Europa cristiana e non esisteva al di fuori dell'Europa cristiana. Gli ebrei, ricordiamoci anche un'altra cosa che ha facilitato i pregiudizi e le persecuzioni. Gli ebrei che hanno sempre vissuto fra di loro, diciamo così, non parlo dei ghetti, parlo anche delle città in cui cercavano di stare insieme per proteggersi a vicenda, ma gli ebrei erano le uniche persone, per esempio nell'Europa medievale, erano le uniche persone che già fin da bambini sapevano leggere e scrivere. Non è solo un fatto religioso la persecuzione, e gli ebrei erano anche persone che parlavano una lingua che nessuno capiva, oltre a saper leggere e scrivere, e di conseguenza erano qualche cosa che veniva percepito come un qualcosa di ignoto, un pericolo ignoto. E molta parte dell'antisemitismo ruota intorno a questo concetto. E poi ci sono tante altre cose di cui potremo parlare, ma senza addentrarci troppo nella storia. Però ricordiamoci questo, che gli ebrei erano qualcosa di specifico e di diverso. E l'avversione verso il diverso, verso lo sconosciuto, è qualcosa che fa parte dell'animo umano, diciamoci la verità. Il signore? Sì. E poi l'altro signore. Il signore con la maglia rosa. Allora, volevo scuso per l'ingenuità e l'ignoranza che forse soggiacciono a questa mia domanda. Allora, nel settembre del 43 mio padre aveva 18 anni, io sono nato che mio padre aveva già 50, io ho 47, fate un po' i conti. E a 18 anni fu catturato dai nazifascisti nell'Appennino Marchigiano e portato in Slesia a lavorare nei campi forzati, nei campi di lavoro forzato. Ecco. Per farla breve, insieme a lui furono deportati altri, non so esattamente, 20.000 italiani, 20.000 civili, non ebrei, non necessariamente omosessuali, né zingari. E mi sono sempre chiesto come mai non si parla mai di queste migliaia di persone, o ecco appunto la mia ignoranza, forse in questo caso magari se ne parla, ma io non me ne accorgo mai, né sui giornali. Solo una volta leggendo la Ciociaria di Moravia si parla appunto di questi italiani catturati un po' a caso, portati giù a Montecassino per fare la diga, cioè la barriera, usati come schiavi, oppure portati al nord e messi sui treni merci. Io ricordo da ragazzo, mio padre è morto che io avevo 15 anni, però ricordo qualcosa di quello che mi raccontò, e insomma sui treni merci lui parlava di scene che poi ho letto nei libri, però sempre riguardo gli ebrei, ecco. Allora mi chiedo come mai non si parla mai di queste persone, nonostante ci si ricordi ogni anno dell'Olocausto. Scusate, poi vorrei fare un'altra domanda che non c'entra nulla con questa. In un documentario visto su Rai Sutil anni fa, lei parlava del suo rapporto con l'italiano e il tedesco e si trovava più a suo agio con una lingua, però dal punto di vista dello scritto, e più a suo agio con un'altra dal punto di vista del parlato. Non ricordo più quale delle due. Se ci può ricordare anche questo aspetto. Grazie. Mentre ti passa il microfono, posso rispondere un secondo a questa osservazione che mi sembra generale? Ecco, mi permetto di non condividere, perché in qualche modo quando allo stesso 25 aprile abbiamo tolto quell'immagine settaria e abbiamo, soprattutto per merito di Presidente Pertini e di altri che sono succeduti e anche di storici in qualche modo capaci di scavare oltre le apparenze, abbiamo tolto il 25 aprile da questa immagine apparentemente settaria e l'abbiamo riconsegnata alla memoria dell'intero paese. La prima cosa che è stata fatta è stata quella di ricordare i 600.000 italiani, militari italiani, deportati in Germania per il solo fatto di indossare una divisa dopo l'8 settembre. E questi 600.000 persone, di cui quasi il 90% hanno rifiutato di aderire alla Repubblica Sociale accettando le privazioni e le morti nei lager, sono stati in qualche modo individuati come il primo atto resistenziale. Cioè, queste normali persone che per caso indossavano una divisa, 90% di leva, sono stati individuati come 600.000 resistenti. Quelli che sono stati presi e che messi a lavorare, soprattutto nella TOT, che questa organizzazione nazista e tedesca che usava i civili a caso per costruire appunto trincee, postazioni, bunker, eccetera, sono stati a loro volta inseriti in questa memoria collettiva. Quindi il paese ha deciso non solo di riconoscere alle singole formazioni partigiane o ai singoli partigiani questo ruolo, ma a centinaia di migliaia di italiani che in qualche modo, anche senza averlo scelto, sono stati portati nei campi di concentramento. Quindi in qualche modo la memoria del paese è stata recuperata da questo punto di vista. Ma vorrei aggiungere poi, parlare del dottor Steinhaus, che in ogni caso la specificità dell'Olocausto e quindi del fatto di essere uccisi per il solo fatto di appartenere a una razza più che a una religione, in qualche modo va oltre quella che potrebbe essere la singola sofferenza anche collettiva di migliaia di cittadini che sono stati portati a lavorare contro voglia come schiavi. Ecco, questo mi sembra che sia lo scarto, no, tra le due questioni. Sì, si parla sempre di Shoah e della specificità, dell'unicità della Shoah. Molte volte io sento dire, ma ci sono stati tanti altri massacri, ce ne sono ancora oggi in giro. La gente che viene uccisa perché appartiene a un'altra religione o a un altro partito, o per qualsiasi motivo. È vero, questi massacri ci sono, e questi massacri purtroppo ho paura che ci saranno sempre, perché io credo che gli uomini imparino poco dal loro passato. La specificità, l'unicità della Shoah consiste in una cosa molto semplice: in uno Stato che ha deciso di dedicare le proprie energie allo sterminio di un popolo, non per la religione. Gli ebrei non sono una razza, ci sono state molti equivoci su questo e molte persone sono state perseguitate, deportate, uccise perché avevano un nonno ebreo. Magari i genitori erano cattolici o protestanti, ma un nonno era ebreo e questo bastava. La specificità risiede proprio in questo: uno Stato che ha concentrato energie, tempo, mezzi, strumenti ed economia, risorse economiche, nel voler sterminare una popolazione, e l'ha fatto anche quando ha continuato a farlo, anche quando stava già perdendo la guerra, perché ricordiamoci che nel 44 e nel 45 i treni verso Auschwitz continuavano a viaggiare. Il lager di Bolzano non è stato smantellato nel 44, è stato creato nel 44. Io Bolzano, anche con Compagni, è partito proprio certo, un mese prima della fine della guerra, ma dalla certo, zona industriale. Questa è la specificità: uno Stato che organizza lo sterminio. Il resto, gli altri stermini, che sono abominevoli, che sono condannabili in tutti i modi possibili e immaginabili, pensiamo soltanto a Srebrenica, ma gli altri stermini sono degli episodi che si inseriscono spesso in guerre tribali, guerre di vario genere, ma sono parte della guerra. La Shoah non è parte della guerra. È iniziata con la pace. È qualcos'altro. Certo, oltretutto. C'era un signore che... Sì. E poi ce ne sono due lì. Buonasera, sono Marco e niente, io ho sempre seguito la storia della cultura ebraica con piacere. Complimenti al dottor Steinhaus per essere qui questa sera, insomma, a narrarci queste verità tristi, però purtroppo hanno fatto la storia della Seconda Guerra Mondiale. Vorrei chiedervi due cose. Se, leggendo, chiaramente erano passato per fortuna quei periodi, uno zio di 21 anni che è morto in Germania in campo di concentramento, ma se il maresciallo Badoglio, invece che dire la guerra continua, avesse detto la guerra è finita dall'8 settembre in poi, sarebbe cambiato tutto? E poi un'altra domanda alla quale forse qualcuno di voi può rispondermi: come persecuzioni ci sono state anche le persecuzioni? Io sono ebraicista, perciò la mia simpatia è rivolta al popolo ebraico, ma al tempo dei romani i cristiani venivano sbranati nel Colosseo di Roma dai leoni. I testimoni di Geova, dottor Frangipane lo sa meglio di me, in Canada sono perseguitati. Perciò il fatto stesso, adesso per carità, e magari gli ebrei senz'altro sono più vulnerabili in questo senso, però il fatto delle religioni ha creato tante persecuzioni, oltre quella degli ebrei, questo volevo dire. Prima risponderà subito il dottor Stanas, ma il dottor Stanas ha proprio parlato di una specificità tecnica anche. Questa prescinde da qualsiasi altra persecuzione. La tecnica, il momento e il fatto che sia indirizzata a un popolo. I romani uccidevano i cristiani perché li ritenevano nemici dello Stato e dell'imperatore, ma in qualche modo non legati al fatto di appartenere a un popolo. Non per quella della religione cristiana, ma essendo pagani. Mi sembra di aver spiegato che il tema non era religioso, il problema era l'esterminio di un popolo, di una popolazione, non di una religione. Voglio ricordare anche che con gli ebrei sono stati perseguitati e uccisi nei campi di sterminio 500.000 di zingari. Zingari e anche omosessuali. No? E gli ebrei lo ricordano sempre quando viene ricordata la Shoah. Esatto. Gli ebrei ricordano anche sempre che gli zingari hanno condiviso questo loro destino. E lei ha nominato il Colosseo, ma lo sa con quali soldi è stato costruito il Colosseo? Col bottino di Tito quando ha distrutto Gerusalemme. È stato costruito con soldi degli ebrei di Israele dell'epoca. Sì, io se volevo solo sentire un vostro consiglio. Quindi un piccolo dettaglio. È un piccolo dettaglio perché se qualcuno vicino di voi andrà a vedere il Colosseo in futuro... Vicino c'è l'arco di Tito e c'è il passorilievo, sì, certo, in cui i romani portano il candelabro, la menorah a Roma. Certo. No, ma il Colosseo è stato costruito con quei soldi. D'accordissimo. Però ci sono due mani alzate da un po' di tempo lì. Grazie. Per la norma, eh? Oppure sì, anche signore, sì. Buonasera, mi chiamo Andrea Agostini. Educatore psicologico. Prima di intervenire con la domanda, volevo dare una risposta anch'io su una questione di prima. Gli ebrei non sono monoteisti, sono monolatri, ovvero riconoscono un Dio e si legano e hanno fatto un patto d'alleanza con un Dio, ma non disconoscono altri dei che all'epoca, come dire, le popolazioni vicine avevano e sapevano benissimo che ce n'erano tanti altri. Quindi è un punto questo anche di ricerca. Volevo tornare a Simon Wiesenthal e alla questione del perdono. Quando appunto lei diceva che un ebreo vive il perdono come qualcosa di molto personale. Come anche Simon Wiesenthal appunto si mette in dubbio, c'è un punto di frizione su questo, no? Perché anche nella Bibbia, nella tradizione ebraica, viene espressa la responsabilità familiare e anche di popolo. Ci sono diversi livelli di responsabilità. È vero che c'è una responsabilità diretta, personale, una persona, come dire, che sia cosciente di fare un'azione, poi è responsabile di quello che ha fatto. Ma siamo anche responsabili, appunto, si parlava di popolo, siamo responsabili come popolo di quello che è accaduto e come famiglie di quello che è accaduto. Nella nostra terra, l'Alto Adige, sono accadute delle atrocità innarrabili, i vicini che delazionavano le famiglie ebraiche e andavano a derubarne poi le proprietà, eccetera. Che questa è anche una di quelle cause, diciamo, che viene... cioè, sono i soldi molto spesso che sono una delle cause fondanti delle persecuzioni. Non solo in Alto Adige. Non solo in Alto Adige. Dappertutto rubavano le scatole. Comunque, quello che è successo qua in Alto Adige è stato particolarmente grave, tant'è che la popolazione ebraica di Merano è stata ogni tanto sterminata, saranno tornate pochissime famiglie. Quello che... voglio dire che c'è una responsabilità familiare generazionale che rimane, perché è vero che sono stati nonni magari a fare, diciamo, a compiere quelle relazioni, a compiere quegli omicidi, a collaborare con i nazisti, a diventare loro stessi nazisti, ma hanno avuto figli, hanno avuto nipoti, bisnipoti, e hanno continuato a tramandare questo loro odio. I loro insegnamenti fluiscono spesso attraverso le famiglie e non tutti hanno fatto una analisi per dire ma questo nonno ha fatto bene, ha fatto male. A volte predomina il clan, l'identità di clan, ok? Molti nazisti sono stati salvati, ok? Dal rientro dalla Germania, quando sono scappati da queste famiglie che sono ancora sul territorio. Tanto denaro è ancora qua sul territorio, che è stato rubato da queste famiglie, e molti si sono fatti ricchi di questo. Per questo io dico, come Simone Wiesenthal, se si fa un dubbio, questo nipote commerciante, lo so che del commerciante di Bolzano che ha fatto la delazione, non mi ha fatto male a non accettare un confronto, non dico tanto per perdonare se stesso, quanto per creare un punto di profonda riflessione. In situazioni come in Sudafrica, in Ruanda, ci sono state queste cerimonie pubbliche di riconciliazione, perché dove non c'è una presa di coscienza e un'elaborazione, può succedere che il passato torna nelle famiglie e si ripropaga questo odio che non è risolto, questo odio che è frutto dell'ignoranza a quell'ebreo, allora a colpe che ha ammazzato Gesù Cristo. Queste sono frutto dell'ignoranza, è una guerra psicologica, è un atto politico che viene preso per creare situazioni politiche violente per avere un tornaconto economico politico. Quindi c'è un perdono che deve essere fatto anche a livello sociale, deve essere presa in considerazione tutta la popolazione ed elaborato insieme questo concetto. Perché se non si fa, come è stato fatto in Germania, come è stato fatto in Sudafrica, in Italia non è mai stato fatto questa situazione. E ancora viviamo e rinascono fantasmi fascisti per questo. Grazie. Ci sono fantasmi nazisti anche in Germania, nonostante l'elaborazione comunque. No, risponde però, tutto. No, siamo passati, come dire, dal racconto del libro alla gnosi dell'ebraismo, che va benissimo. Ecco, diciamo che è molto complicato il discorso. Io penso che una nazione, in qualche modo, chiede perdono attraverso i suoi atti. Poi le singole famiglie, le singole persone, spetta alla loro coscienza in qualche modo, no? Elaborarle. Io penso che se una nazione, un paese come l'Italia, pone come dire, passaggio preciso della propria identità, il 25 aprile, la liberazione, la democrazia, la propria Costituzione, che in qualche modo colpisce e proibisce ogni persecuzione, ogni azione contro razze, culture, religioni. Ecco, penso che sia questo l'atto, in qualche modo, che sana. Dopodiché le situazioni individuali vanno elaborate all'interno delle singole persone. Ma questo non c'è nessuna costituzione, nessuna festa che possa mondare questa cosa. Ma quindi il suo è un ragionamento interessante, ma un ragionamento che tocca la libera coscienza di ognuno, non l'azione, l'azione, come dire, di una popolazione, di una nazione, di una cultura. Ecco, io giusto vi volevo invitare, se avevate, diciamo, anche voi questo desiderio, perché so che la base scientifica con cui anche il nazismo ha preparato questo specifico sterminio è stata l'eugenetica, visto che so che in quel modo sono state preparate anche una generazione di medici che hanno fatto un po' di pratica con gli invalidi, diciamo, sterminandoli nella piena legalità, e da lì poi sono passati ad avere la manovalanza pronto per poter poi mandare nei vari campi di sterminio. Ecco, come mai questa specificità della scienza, nel senso che la scienza procede per valori, no? E studi, ecco, visto che su questo fatto specifico, cioè che noi non riusciamo ad affrontare il fatto che diciamo addirittura una scuola di scienza ha preparato quello che è stata la manovalanza del nazismo contro gli altri, e che questo poi tutto sommato ancora oggi, io ho sentito recentemente il signor Putin dire che gli ucraini non esistono addirittura, no? Quindi mi chiedo come mai questa specificità dello sterminio non viene sottolineata. E poi volevo chiedere al dottor Steiner se invece se per caso esiste qualche diciamo corrente messianica ebraica legata al fatto che avete chiesto a Dio, diciamo, di diventare servitori, e io così a livello poetico, anche se vi trovo potrà sembrare strano, diciamo, l'abbinamento, mi viene a pensare che effettivamente è stato chiesto al popolo ebraico una cosa molto importante, secondo me, da Dio, cioè il fatto di dimostrare che stiamo deragliando, che uccidere l'altro è una cosa terribile. Il dottor Steiner sottovoce mi ha detto stiamo deragliando, nel senso che stiamo andando, ecco, a proposito della sua prima cosa, io sono abbastanza stanco, ma personalmente, di sentire usare certi nomi a caso, certi aggettivi a caso, mi sono un po' stufato di sentir dire quello che stanno facendo gli ucraini, i russi, o gli ucraini a Saporizza o qualche altro città è come la Shoah, gli ucraini sono dei nazisti, ecco, cerchiamo di mettere, ma questo è un discorso, cerchiamo di storicizzare e di problematizzare anche gli aggettivi. Il nazista è un nazista, la Shoah è la Shoah, punto. Quello che sta succedendo in Ucraina, in Vietnam, è tutta un'altra cosa. È un'eugenetica. È un'altra cosa. Dopodiché, dal punto di vista della sua seconda domanda, non so se il dottor Steiner ha tempo, ha voglia in questo momento passare dal libro a un'agnosi. No, direi che restiamo concentrati un po'. Ecco, possiamo concentrarci magari, ecco, perché magari non siamo preparati ad affrontare argomenti. No, non è la sede, non è la sede. Non è la sede soprattutto, la sede. Una risposta per sapere se queste persecuzioni sono più religiose o... Ma mi sembra che dottor Sarava abbia chiarito che la specificità dell'olocausto della Shoah è il popolo. I nazisti volevano eliminare un intero popolo. Non volevano eliminare una persona perché credeva in Dio invece che in Buddha. E voler eliminare un intero popolo è la radice della Shoah. Che sia abbastanza chiaro. Prego, signore. Posso fare un'ultima? Ecco, allora... Aumenta non è l'ania usante. E poi andiamo. Ringrazio dottor Steiner per questa sua bella relazione, però su un punto dissento da quello che ha detto lui. Quando parla dei giovani, naturalmente io sono insegnante e quindi è chiaro che ogni volta che viene puntato il dito sui giovani io mi oppongo. Anzi, credo che al giorno d'oggi, la scuola di oggi, per le iniziative che mette in campo, io sono degli anni 50, da noi non esistevano i viaggi della memoria, non esistevano, semplicemente. Quindi per il lavoro che si fa oggi, non prendiamo la minoranza dei ragazzi che ci saranno sempre, disinteressati, incoraggiamoli invece, come stiamo cercando di fare noi, sensibilizziamoli, piuttosto, se dobbiamo puntare il dito, puntiamoli contro gli adulti, che spesso sono disinteressati e disamorati rispetto a questo grande problema. Grazie. Bravissima. La scuola è brava, è una bella scuola di eccellenza, quando ci sono gli insegnanti motivati e capaci che sanno farsi ascoltare dai giovani. Adesso, dopo la pandemia, i giovani erano i più fragili, sono quelli che hanno reagito in maniera più inconsulta, forse è quello che è successo. E io credo che molta della violenza dei giovani, anche la violenza contro se stessi, gli incidenti automobilistici che si succedono, siano conseguenza di questo trauma indotto dalla pandemia. Perciò facciamo un passo indietro, non guardiamo i giovani di oggi. I bravi insegnanti sanno come insegnare anche queste cose difficili e sanno come farsi capire dai giovani. Dipende sempre dagli insegnanti, sempre. Non dimentichiamoci però che dipende anche dalle famiglie, perché molti dei pregiudizi di qualunque genere vengono veicolati nelle famiglie, non nella scuola. Comunque complimenti. Signori, se non ci sono altre domande, io ringrazio tutti per Santos, perché, come posso dire, il suo equilibrio e la sua montura c'è sempre di grande conforto, e anche il dibattito che ha seguito la sua relazione, penso che sia stato, magari tutti i dibattiti fossero così interessanti e civili. Certo. Grazie a tutti voi e al dottor Santos.